ecco la primavera che il cor fa rallegrare, gente da innamorare, de star con lieta cera. Noi veggiam l'aria e il tempo che pur chiama allegrezza, in questo vago tempo ogni cosa ha vaghezza, l'erbe con gran freschezza e fior coprono i prati, e gli albori adornati sono in simil maniera. Ecco la primavera che il cuor fa rallegrare, gente da innamorare e star con lieta cera. Estar con